TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:15, buongiorno, buona domenica da Rita Micoli in apertura. Un aggiornamento che riguarda la cronaca, è già in fase di bonifica l'incendio scoppiato nella serata di ieri a Lauco, in località Montevasiro, ha coinvolto oltre 15 ettari tra pratiive e bosco di faggio. Nelle fasi iniziali ha avuto una forte e rapida espansione per la grande quantità di materia combustibile presente, presa secca dalla prolungata assenza di precipitazioni in una giornata anche ventosa. Per Corpo Forestale e Vigili del Fuoco, intervenuti subito sul posto, è stato impossibile operare durante la notte sul versante molto ripido e privo di strade di accesso. Questa mattina l'arrivo dell'elicottero della Protezione Civile, con cui l'attività di spegnimento è iniziata alle 8 con lanci d'acqua. Sul posto personale delle stazioni forestali e volontari delle squadre comunali di protezione civile in fase di accertamento le cause del rogo. È ormai un giorno e mezzo dal blitz statunitense in Venezuela, dove è stato prelevato il presidente Maduro, subito trasferito in carcere a New York con varie accuse, tra cui quella di narcotraffico. Continuano a farsi sentire i corregionali del paese sudamericano che ha potuto negli ultimi anni ha lasciato il Venezuela, raccontano. Doveva succedere, purtroppo succede anche tardi, doveva succedere molto prima, perché sono 25 anni che il popolo venezuelano sta soffrendo. Sollievo perché Maduro non c'è più, ma anche tanta paura e incertezza per la sorte del Venezuela e dei venezuelani. La esprimono Enzo Gandin, 97 anni, storico presidente del Fogolar Furlan di Caracas, e la figlia Claudia, andati via dal paese nel 2009, ai tempi di Chavez. Noi pensavamo all'inizio che poteva risolversi tagliando la testa al serpente, ma non è il regime in Venezuela, non è un serpente, è un polipo con tanti tentacoli. Con loro negli studi RAI c'è anche Francis Ciaparro, avvocata di 46 anni, andata via 8 anni fa. È stata lei, da Udine, a dare la notizia dell'operazione americana ai genitori che vivono a sud, a 800 km da Caracas. La TV non dava informazioni. Rispetto a Enzo e Claudia, ha ricordi più freschi della sua città, che ha visitato 6 mesi fa per l'ultima volta. Ogni anno che peggiorava la situazione, la città, la gente, la qualità umana, tutti i negozi espropriati, non c'è niente, vuoto, e la città distrutta, per sembra come sia passata la guerra. A chi parla di stato di diritto violato, Claudia risponde che lo stato di diritto in Venezuela non esiste da decenni, tra brogli elettorali e incarcerazioni. Un'amica di Claudia, giudice, è finita in prigione per aver rilasciato un dissidente. Era stata torturata, violentata, subentrata una malattia. Lei non può uscire dal paese, non può vedere la sua famiglia che è all'estero. C'è questa speranza e vogliono un cambio, lo vedono, e da tante che aspettiamo. È un mix proprio di emozioni, perché da una parte siamo tutti contenti perché è il momento che stavamo aspettando, dall'altra parte è un caos e non sappiamo ancora come andrà a finire veramente. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un appuntamento importante per l'arcidiocesi di Udine oggi alle 16 in Duomo. L'arcivescovo Lamba ordinerà 4 nuovi diaconi. In base all'ordinamento della Chiesa possono fra l'altro amministrare il battesimo ed altri sacramenti. Attualmente sono 31 i diaconi permanenti in servizio nell'arcidiocesi di Udine, con un'età media di 72 anni. Ora uno sguardo al meteo: il cielo è sereno su pianura e arco montano, poco nuvoloso sulla costa. Alle 11 c'erano 6 gradi a Trieste, a Pordenone e a Gorizia, 7 a Udine, a Tolmezzo 0 sul Piancavallo e a Tarvisio meno 1, a Forni di Sopra meno 2, a Sappada meno 10 gradi, come sul Monte Lussari, meno 9 sullo Zoncolana, grado Elignano 7. Le previsioni dell'ARPA: oggi cielo sereno, poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità verso sud-est. Nella prima parte di questa giornata, sulla costa e sulle zone orientali, bora moderata sostenuta a Trieste. Ora l'ampia pagina dello sport. Iniziamo con la Coppa del Mondo femminile di sci alpino nello slalom di Kranjska Gora in Slovenia. La tarvisiana Lara Della Mea è settima dopo la prima manche in testa. La svizzera Reske ieri ha vinto il gigante. La triestina Sinigoj, che scia per i colori sloveni, si è invece piazzata 34esima, per lei dunque niente, seconda manche che sta iniziando in questi minuti. Ora il calcio in Serie A. L'Udinese battuta in casa del Corno per 1-0, il gol del pareggio di Zaniolo annullato per fuorigioco. Ripartire dal buon secondo tempo con anche il cambio di modulo e il giovane Miller. L'Udinese sconfitta ieri 1-0 a Como torna a casa delusa per i tanti errori commessi nel primo tempo e la mira di Heckelenkamp nel secondo. La ripresa è stata molto buona, peccato per la grande chance di Heckelenkamp che avrebbe potuto cambiare la partita. Globalmente è stato un secondo tempo molto migliore del primo, avremmo dovuto giocare così però tutta la partita, che alla fine perdiamo in virtù di quel primo tempo e di un altro, l'ennesimo rigore sciocco concesso. Stupid penalty. Mercoledì a Torino si chiuderà il girone d'andata. Nei primi 18 turni tanti alti e bassi per la squadra friulana, che mister Rugnajic commenta così. Gli alti e bassi fanno parte di un processo con tanti cambiamenti, con tanti giocatori che non hanno tutto questo trascorso di Serie A. Qualcuno come Zaniolo è arrivato a fine mercato, ma tutto fa parte del gioco ed è una bella sfida. Per tanti motivi poi manca la continuità. Oggi in alcuni passaggi c'è mancata la qualità, ma sono fiducioso che la squadra si stabilizzerà. Adesso col Torino sarà molto importante e mi auguro che faremo molto meglio giocando i due tempi nella stessa maniera. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Il basket, oggi giocano le due regionali di A, Pallacanestro Trieste alle 17 a Trento senza Sissoko e Ross, a Udine, a Milano contro l'Olimpia alle 18. Ieri invece in A2 Cividale ha vinto anche l'ultimo match contro Mestre 77 a 63 al Palaperusini, ma ha perso anzitempo una delle sue stelle, Francesco Ferrari. Gli applausi del Palagesteco, ma anche le lacrime, difficili da trattenere per un ragazzo di appena 20 anni. Dopo l'ennesima prestazione solida, 18 punti e 8 rimbalzi nella vittoria 77 a 63 su Mestre, Francesco Ferrari saluta. La Virtus Bologna, campione d'Italia, ha esercitato la clausola presente nel suo contratto e, vista la situazione infortunati, lo avrà con 2 settimane di anticipo. Impossibile per Cividale pensare di trattenere le ambizioni di uno dei migliori giocatori europei della sua età, come certificato dal premio di MVP dell'Europeo Under 20 a luglio. Sostituirlo però non sarà difficile, sarà impossibile. Il mercato, anche mettendo mano al portafoglio, 100.000 euro il prezzo pagato dalle Bunere per Ferrari, non offre nulla e così si cercherà di puntellare la squadra con un ragazzo di prospettiva che possa dare qualche minuto subito, magari cambiando un po' l'assetto della squadra. Un peccato, perché la Gesteco con la vittoria di ieri sera ha raggiunto le prime in classifica, ma con l'equilibrio della 2 non sarà semplice confermarsi anche soltanto in zona playoff senza miglior giocatore. Nella partita con Mestre, buoni segnali dagli altri. Redivo soprattutto nel primo tempo ha gestito bene i ritmi, propiziando la prima minifuga, e Mastellari, che ha mantenuto il solco scavato in precedenza con un buon finale di secondo quarto. Nella ripresa, dopo il più 16 siglato Freeman, la squadra si è un po' persa, subendo il rientro dei Mestrini trascinati da Romando. Poi tanto Ferrari per brindare l'addio, prima dei saluti, i canestri decisivi che portano altri 2 punti ai Ducali. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è in corso a Trieste la corsa della Bora, evento di corsa trail organizzato dalla società Sentiero 1, 8 le distanze, regina dell'evento la Bora Ultra, partita a mezzanotte. Il primo classificato ha tagliato il traguardo a Porto Piccolo dopo 10 ore e mezza. Bora Ultra, la prova più dura della corsa della Bora 2026 con i suoi 105 km, è stata vinta dall'italo-francese Nicolas Lemoine. Ha percorso l'anello all'interno della provincia di Trieste dal dislivello di 3.800 metri in 10 ore, 38 minuti e 58 secondi, correndo quasi dall'inizio da solo in testa. 29 anni, nato a Parigi e rifugista in Alta Savoia. Lo abbiamo sentito a caldo subito dopo il traguardo. Abituato a terreni alpini, ha avuto difficoltà ad adattarsi sulla roccia carsica. Nicolas Lemoine. La differenza è che qua praticamente corri tutto a lungo dall'inizio alla fine, e questo almeno per me è una sfida in più, perché camminare spezza lo sforzo e dunque sì, più dislivello fa una cifra impressionante, ma alla fine qua corri, a volte devi proprio lavorare con la mente, no? Sì, la corsa in sé, ma anche il lavoro di mente durante una crisi che probabilmente hai avuto sul percorso, a cosa pensavi? A tutto. Ho pensato a farmi un pisolino a un momento, poi mi sono detto che col freddo che c'era non era una bella idea, dunque ho lottato contro il sonno, mi sono guardato attorno, c'erano gli animali, poi ho pensato magari alla gara che faceva la mia compagna per pensare ad altro, per non pensare a sé, e dunque ecco, provare a cambiare il punto di vista, ecco, se no pensi solo a te, alle tue gambe che fanno male, voilà. Perché corri, ma soprattutto perché corri queste distanze così lunghe? Non per soffrire, ma comunque entri un po' in un viaggio che quando fai una 20 o 30 chilometri è solo una sparata e alla fine sì, non entri in quella dimensione di gestire la fatica, direi. Sistiana, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione domenicale del giornale radio regionale, in regia Carlo Morello e Mauro Ciccarelli, in redazione ha collaborato Paolo Nuzzo. Ancora una buona domenica da Rita Micoli. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.